tu, dolce sempre di più. Per quello che mi dai, io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. Forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, l'azzurro impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande. Più veloce, ad ogni rincorsa esplode una voce, chi grida vittoria non sa darsi pace, disegna la storia, solo chi è capace. Io corro più forte, raggiungo le stelle, le rubo la luna, diventano pelle, per farti un vestito azzurro che splende, negli occhi e nel cuore l'Italia si accende. Gli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande.